E sia così, e così sia. Tu non sei più la mia allegria. Lo so che ci buttiamo via, ma sia così, e così sia. E sia così, lo dico io, lo dici tu, lo vuole Dio. Lo so che ci buttiamo via, ma se è così, che così sia. Io, ragazzo che piegavo tutto intorno a me, ho trovato chi ha piegato me. È da pazzi far morire la felicità per tenere in vita questo amore. Ma se è così, ce la fa a stare qui senza pietà, in questo amore che non c'è più, non c'è più gara, hai vinto tu. E sia così l'eternità, se tu lo vuoi, così sarà. E adesso puoi restare qui o andare via. E sia così, e così sia. So che ci buttiamo via, ma è così, parola mia. Era tutto pronto per volare insieme a te, verso una luna che non c'è. Rinchiuso dentro i miei, chissà. E sia così l'eternità, se tu lo vuoi così sarà. È colpa tua, oh, è colpa mia. Ci buttiamo via, lo so che ci buttiamo via, ma se è così, che sia così, e così sia.